Nel commentario edito in 12 volumi da Antonio Consorte in merito al 40° capitolo del libro di Ezechiele, Matthew Henry scrive: «In questo capitolo inizia una visione unica e continua fino alla fine del libro, giustamente ritenuta uno dei più difficili brani di tutte le scritture. Gli ebrei non ne permettono la lettura ai minori di 30 anni e assicurano i lettori che, anche se non possono comprendere ogni cosa, alla sua venuta Elia ne darà una spiegazione. Molti commentatori, antichi e moderni, hanno riconosciuto di non poter comprenderne il significato e le applicazioni. Tuttavia non dobbiamo eliminarla solo perché è difficile da capire, ma dobbiamo studiarla umilmente, intendere quanto possiamo e poi, se ci sentiamo scoraggiati, ringraziare Dio che la nostra salvezza non dipende da questo». Si tratta di parole di sconforto per la mancanza di comprensione della parola di Dio e di fiducia, perché nonostante tutto Dio non ne tiene conto. A mio avviso però questi sentimenti potrebbero essere evitati, perché non è vero che gli ultimi 8 capitoli di Ezechiele siano i più difficili e che occorre Elia per darne una spiegazione. Ne spiego il motivo. Ciò che rende difficile la comprensione della parola di Dio non è tanto il testo in sé, meno, anche se ovviamente sia in parte vero meno, ma i presupposti dai quali partiamo. Come per un cattolico romano è difficile comprendere che la scrittura enunci una salvezza per grazia, perché la dottrina della sua religione impone un presupposto secondo il quale la salvezza si deve meritare mediante le opere, così per un testimone di Geova è difficile comprendere dalla scrittura che Gesù sia Dio, perché la dottrina imparpita gli fa presupporre che la posizione di Gesù quale figlio di Dio sottintenda un essere creato da Dio Padre. Questo esempio ci insegna che la più grande necessità di chi si accosta al pensiero di Dio, espresso nella sua parola scritta, non sia tanto l'accumulare nozioni su nozioni quanto demolire preconcetti e opinioni sbagliate assimilate dalla cultura nella quale si vive. Ho visto in televisione un documentario che, illustrando la cultura degli abitanti della Mongolia, rendeva nota una usanza locale per la quale i fratelli vivono assieme avendo in comune una sola moglie. E nell'evidente impossibilità di conoscere l'identità del padre dei figli nati, è chiamato papà il fratello più grande. Avendo la mente condizionata da una tale cultura, come sarà possibile per un nativo della Mongolia comprendere correttamente nell'immediato il concetto di famiglia così come l'ha ideata Dio? Questo problema di comunicabilità, del resto, è comune a tutti i missionari stranieri che portano l'Evangelo in culture totalmente diverse da quella ebraica e, di conseguenza, se vogliamo essere obiettivi, anche qui in Occidente. Stabilito il necessario presupposto che per comprendere la parola di Dio la si debba leggere in considerazione della cultura ebraica in cui essa è calata, consideriamo ora gli ultimi 8 capitoli del libro di Ezechiele. A sorprendere in questi capitoli è che l'Eterno Dio dia ordini in merito alla visione di un nuovo tempio, di un nuovo santuario, di nuove richieste di offerte cultuali, di nuove regole per i sacerdoti e di una nuova spartizione del paese fra le 12 tribù di Israele. Anche a chi ha completo digiuno per ciò che riguarda la storia ebraica sa che il popolo di Israele aveva già ricevuto regole precise in merito ad una città, al tempio, al santuario, alle offerte cultuali, ai sacerdoti e ai confini del territorio che doveva occupare. Perciò la domanda più spontanea da porsi è come dobbiamo intendere tutti questi ordini dati dal Signore l'Eterno. Sono 8 capitoli da prendere in senso simbolico o letterale. Per alcuni, fra i quali lo stesso Matthew Henry, il tempio è mistico, mentre le camere del Tempio rappresentano le singole congregazioni dei credenti che fanno parte del suo grande Tempio, cioè della Chiesa Universale, e che devono attenersi alle regole e ai precetti delle Scritture. Ma un'altra domanda sorge di conseguenza. Perché ci si domanda se ciò che è scritto sia simbolico o letterale? Quando leggiamo che Ezechiele, trovandosi presso il fiume Chebar, nell'anno 30°, il 5 del quarto mese, ebbe una visione, non ci poniamo il problema se ciò sia simbolico o letterale. Vero? Quando leggiamo che Ezechiele, per ordine dell'Eterno, fa un foro nel muro, non ci poniamo il problema se questa descrizione sia simbolica o reale. Perché, allora, chiederselo in merito agli ultimi 8 capitoli di Ezechiele? Per alcuni la risposta sembra scontata. Perché non ha senso avere nuove leggi e regolamenti in merito al Tempio, ai sacerdoti, al territorio, quando queste erano già state stabilite secoli prima? Inoltre, che senso hanno tutti gli ordini in merito alle offerte, quando con la venuta di Gesù queste regole del culto sono state abolite? Le domande hanno del giusto, ma mancano di una visione completa del piano di Dio. Innanzitutto non è saggio ritenere simbolico ciò che non comprendiamo o non quadra con la nostra logica. Come fanno coloro che negano il fatto storico di Giona solo perché è stato inghiottito da un pesce? Poi mi è proprio difficile, ma difficilissimo, pensare che il diottrino abbia fatto scrivere 8 capitoli così particolareggiati in merito al tempio, al culto e alla spartizione del territorio solo per simbolismo. Anche quando Gesù Cristo, così ritiene anche Matthew Henry, dice a Ezechiele: «Tu, figlio d'uomo, fa loro conoscere il modello del Tempio e la sua disposizione, le sue uscite e i suoi ingressi, l'intero suo modello e tutti i suoi statuti, tutte le sue forme e tutte le sue leggi. Mettili per iscritto sotto i loro occhi affinché osservino l'intero suo modello e tutti i suoi statuti e li mettano in pratica. Questa è la legge del Tempio». Ezechiele 43.1012. È difficile pensare che non sia letterale. Abbiamo esaminato alcune ragioni secondo le quali gli ultimi capitoli del libro di Ezechiele potrebbero essere considerati simbolici, ma vi sono però molte altre ragioni a favore di una interpretazione letterale. Innanzitutto, è letterale il fatto che Gesù un giorno tornerà per regnare a Gerusalemme su tutto il pianeta Terra, come è pure letterale il fatto che i credenti appartenenti alla Chiesa, i quali sulla terra saranno stati vittoriosi sul peccato, regneranno con Cristo. Nulla di strano. Perciò che il libro di Ezechiele termini con queste parole: «Da quel giorno il nome della città sarà l'Eterno è là», 48.35. A nulla servono le più disparate allegorie secondo le quali i credenti avranno dei chiari segni sulla sua presenza, perché in effetti sarà Gesù Cristo in persona ad essere presente. Colui che nell'antico patto viene chiamato Yahweh. Solo con la presenza corporea di Cristo Yahweh, nella nuova città, si potrà dire Yahweh è là. Con questa visione della scrittura è possibile anche comprendere altre descrizioni del profeta Ezechiele e ritenerle letterali. Allora udii uno che mi parlava dal tempio, mentre un uomo stava in piedi accanto a me e mi disse: «Figlio d'uomo, questo è il luogo del mio trono e il luogo delle piante dei miei piedi, dove abiterò in mezzo ai figli di Israele per sempre». 43.67. L'uomo che parla con Ezechiele è niente meno che Cristo, il quale annuncia che un giorno, scendendo dal cielo, metterà i suoi piedi sul monte vicino a Gerusalemme, il medesimo dal quale ne è asceso, e che in seguito siederà sul trono per regnare e abiterà in mezzo ai figli di Israele. Non è forse questa una verità espressa in tutta la scrittura? Perché interpretare in modo allegorico gli ultimi 8 capitoli di Ezechiele? Non sta forse scritto nel libro dell'Apocalisse, il quale parla di futuro, che i credenti staranno davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte, nel suo tempio, e colui che siede sul trono dimorerà tra di loro? App 7.15. Non è forse mancanza di fede quando si pensa e si dice che la presenza di Cristo per i credenti sarà come quella che sperimentiamo oggi? No. I credenti nella promessa secondo la quale Gesù regnerà per 1000 anni sulla terra credono pure che vedranno faccia a faccia Gesù Cristo come lo vedevano gli apostoli e i suoi contemporanei, e per questo credono pure che Ezechiele sull'alto monte abbia ricevuto da parte del Dio Trino una visione relativa al tempio, all'altare, ai regolamenti che riguarderanno i sacerdoti, alla delineazione dei confini della terra promessa, all'assegnazione del terreno per il santuario e per i sacerdoti, che ci saranno nel millennio. Con questa fede posso comprendere gli ultimi capitoli del libro di Ezechiele e non sono affatto scoraggiato nell'applicarli. Un'altra prova che gli ultimi capitoli del libro di Ezechiele siano da ritenere letterali si trova al capitolo 44. Poi egli mi condusse verso la porta esterna del santuario che guarda est, ma era chiusa. L'Eterno mi disse: questa porta resterà chiusa, non sarà aperta, e nessuno entrerà per essa, perché per essa è entrato l'Eterno, il Dio di Israele, perciò resterà chiusa. Ma il principe, poiché egli è il principe, potrà sedervi per mangiare il pane davanti all'Eterno, egli entrerà dall'atrio della porta e uscirà per la stessa via. 44.1. Il fatto che l'Eterno, il Dio di Israele, cioè Yahweh, sia entrato per la porta, induce alcuni a pensare che la descrizione sia metaforica, perché Dio non ha un corpo e nessuno lo ha mai visto. Ma se teniamo presente tutta la rivelazione del Dio Trino, prendiamo atto che l'Eterno, cioè Yahweh, ha un corpo ed è stato visto e toccato. Perciò nulla di particolare che il Dio di Israele, cioè Cristo, passerà fisicamente per una porta, e proprio perché sarà passato fisicamente per quella porta, nessun altro passerà per essa, mentre il principe del popolo potrà stare davanti alla porta. Questa spiegazione della scrittura non fa a pugni con nessun'altra rivelazione data da Dio nella sua parola, mentre l'interpretazione allegorica ne svilisce il vero significato e chiude ogni spiraglio di luce che illumina la nostra ragione. Ed è questo il motivo per cui gli ebrei non ne permettono la lettura ai minori di 30 anni e assicurano i lettori che, anche se non possono comprendere ogni cosa, alla sua venuta Elia ne darà una spiegazione. L'interpretazione simbolica è altresì la ragione per la quale molti commentatori antichi e moderni hanno riconosciuto di non poter comprenderne il significato e le applicazioni. Se si ha il coraggio di considerare letteralmente gli ultimi 8 capitoli di Ezechiele, si eviterà la tentazione di eliminarli. E neppure ci si sentirà scoraggiati, ma la nostra mente verrà illuminata e il nostro cuore sarà reso saldo, perché sapremo che avverrà esattamente come sta scritto. La parola di Dio per noi non sarà allora un libro di morale, ma in ogni parte della scrittura emergerà la persona, meno la tipologia di Gesù, il quale è, in definitiva, la chiave per comprendere la parola di Dio, anche perché Gesù, Cristo stesso, è la parola di Dio, quella fattasi carne. Condivido pienamente l'affermazione che qualunque esposizione di testo che non guardi a Cristo e che si limiti a spiegare principi biblici sarà un sermone da sinagoga, tendente solo a spronare le persone affinché esercitano la propria volontà con lo scopo di vivere in modo conforme a un determinato modello, e cioè in modo religioso. Quando è così, il credente ha fallito il suo scopo di predicare il regno terreno futuro di Cristo. Aprile 2008, Ellero,